Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, programma che da ora alle ore 20, ovvero adesso, fino alle 21:30 saremo noi dell'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste a condurre questo programma, ma ora andiamo con la sigla. Bene, questa era la sigla iniziale di questa trasmissione che è Zardins Magnetics e che andrà avanti fino alle ore 21:30 qui con conduzione in diretta radiofonica dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione del Friuli e Trieste, e stiamo trasmettendo da Radio Onde Furlane da Udine. Ma andiamo ora con l'ascolto di uno o due brani di questa band statunitense, band che è esistita negli anni 90, loro erano i Final Warning, band di New York, e da un loro 7 pollici datato 1994 ci ascoltiamo appunto dal loro dal loro 7 pollici intitolato Eyes of a Child. Final Warning. Killing for profit, profit's a sister. Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Zardis Magnetics anche da parte mia. Allora, stasera, per chi ha ricevuto così quella specie di scaletta che cerchiamo di inviare ogni settimana, ci sono degli argomenti particolari che affronteremo. Però prima di affrontare questi argomenti, io ci tenevo a così ricordare, dire delle alcune parole insomma su una compagna che è mancata, Marinella, che tra l'altro è stata per parecchio tempo, ha collaborato anche con Zardins Magnetics anche in momenti nei quali diciamo non c'erano molte forze per mandare avanti la trasmissione. E compagna anarchica, quello che dico diciamo è un ricordo politico ma personale, nel senso che individuale, non ha nessuna pretesa di oggettività né di così, è una mia, riguarda la mia esperienza insomma con questa compagna. Da parecchi anni avevamo reciprocamente preso le distanze, diciamo che c'è stata una frattura abbastanza decisa e sì, insomma, per diversi motivi politici e anche per motivi esistenziali, e anche la faccenda degli ultimi anni delle prese di posizione relativamente all'obbligo vaccinale e al Green Pass ha contribuito diciamo al distanziamento politico. E ciò nonostante, la compagna, beh, intanto quando viene a mancare comunque un compagno o una compagna è una cosa grossa, importante, e non è solo una cosa che riguarda la persona che manca e insomma la sofferenza anche diciamo affettiva, emotiva che coinvolge tutte le persone che sono state e che sono vicine, ma è la questione, insomma, è una questione generale, per come la vedo io, politica, riguarda un po' tutti, cioè un momento cruciale che riguarda un po' tutti, noi che facciamo parte diciamo di una, con tutte le sfaccettature e le differenze, comunque di una realtà che si definisce anarchica. Allora, appunto, due parole, io mi sono ricordata in questi giorni, ho pensato insomma, appunto io ho incontrato, non conosciuto Marinella, ma perché non ci salutavamo né ci parlavamo né ci frequentavamo minimamente, l'ho incontrata quando io avevo circa 16 anni, lei aveva un po' di anni più di me, perciò era comunque una giovane donna, non era un'adolescente, era indipendente, io invece, tutte e due della Bassa Friulana, lei di un paese, comunque faceva parte di un gruppo diciamo attivo e anche vitale, io invece abitavo in un paese forse più triste del suo e non avevo nessun legame, diciamo, avevo delle tensioni mie di insopportabilità della vita, ma non avevo sbocchi, ero abbastanza sola, isolata in questo contesto, diciamo, e appunto c'erano queste persone, tra cui Marinella, che venivano a volantinare al mio paese, magari in situazioni, che ne so, all'8 marzo per dire, oppure durante i concerti, e insomma volantinavano contenuti politici, antimilitarismo, anche femminismo, insomma contenuti politici forti, che per me erano sorprendenti diciamo, e soprattutto era sorprendente il fatto, cioè pensavo, ah boh, ma allora qualcosa si può fare, cioè non è che finisce tutto qua, che uno si remena nella sua appunto solitudine, diciamo, nel suo isolamento e finisce qua. E quindi per me è stata una sorta di soprattutto lei, perché aveva un atteggiamento diverso, insomma, poi era una donna e quindi era come una specie, apriva in un certo senso la strada, diciamo, ai pensieri, e poi per me è stata in quel momento lì una sorta di istigatrice all'anarchia, diciamo, si può dire, visto che lei non rischia niente in questo momento, anche se è stata istigatrice. E poi sono passati gli anni, ho trovato anch'io la mia strada, ma non solo io, insomma, ci sono state tante cose, poi ci sono state delle cose condivise forti, come ad esempio le occupazioni via Volturno, ma anche via Scalo, insomma tutta l'esperienza dei centri sociali autogestiti e tutte le battaglie insomma sul territorio, fino ad arrivare appunto fino a qualche anno fa a questa spaccatura. niente, ci tenevo a ricordarla in questa maniera qua, perché appunto per me è stata questa cosa, sì, da ragazza diciamo, è stata questa cosa così di slancio, che cioè, visto che si ricordano poi le persone che non ci sono più, si ricordano per i vivi, no? Cioè, e non, perché insomma chi è morto, ma si ricordano per i vivi, ma anche per continuare in qualche maniera, va al di là della persona singola, secondo me, e sì, è importante, io credo, mantenere anche un dialogo tra morti e vivi, tra vivi e morti, tra vivi e vivi, e magari appunto anche non rimuovere diciamo anche le cose magari così più critiche, non agiografiche, non di perfetta sintonia, ma farsi carico diciamo ecco di anche delle criticità relative alle relazioni politiche esistenziali e alla vita e alla morte, insomma, in ambito anarchico è una, per me è una cosa fondamentale, cioè la base, insomma, perché comunque la vita non è slegata, la vita e la morte non sono slegate dalle relazioni e dalla propria istintività e progettualità politiche. E niente, un saluto quindi a Marinella e a tutte le persone che comunque hanno avuto a che fare con lei. E per appunto chiudere così questo, queste brevi parole dedicate a Marinella, mettiamo un pezzo di Nico. E intanto in sottofondo stiamo ascoltando i Distemper, band di Genova, da questo 7 pollici uscito nel 2014 assieme ai Raukers, che è una band di Desenzano del Garda. Comunque rimaniamo con i Distemper. Ciao a tutte e a tutti, un saluto anche da parte mia a tutti voi che siete in ascolto per questa puntata di Zardin Magnetics di giovedì 27 luglio 2023. Per questa, diciamo, sezione di Zardin Magnetics dedicata all'anniversario del luglio del G8 di Genova, e ci chiediamo anche perché commemorare, parlare degli anniversari eccetera e non lasciare spazio all'attualità, però una cosa importante, perché è una cosa sempre importante commemorare e ritornare sugli eventi storici che sono radicati, sono collegati, sono ancora, hanno profondi nessi col presente, e tuttavia il presente tende sempre a rimuovere, sempre a interpretare, sempre a manipolare o addirittura a mistificare, e a forza di anni e anni di oblio, alla fine anche in chi ne ha coscienza, diciamo, critica di questi eventi, è portato a dimenticarsene. Per cui comunque partiamo dall'attualità, una notizia che non c'entra niente, un'azione diretta svolta oggi a Torino, e di cui diamo insomma notizia: danneggiamento veicoli, l'Operosa SPA. L'Operosa È una ditta multiservizi, un grande multinazionale, più che un multiservizi, e che si occupa delle strutture, dei lager per migranti in varie parti d'Italia, sicuramente nel CPR di Corso Brunelleschi di Torino. Danneggiati due furgoni dell'azienda L'Operosa SPA a Torino. L'Operosa collabora per la riapertura e il mantenimento del CPR, gomme tagliate, parabrezza rotti. Piccolo gesto di solidarietà a chi lotta nel CPR. Ecco, l'autenticità della rivolta, quello che deve guidare nelle commemorazioni dei giorni di rivolta appunto di Genova, giorni in cui appunto fu impedito, si arrivò insomma dopo un percorso di settimane, mesi, a quel momento lì, si auto diciamo nominarono come interlocutori alcune componenti del movimento di allora. Quello fu un grosso errore, questi furono, diciamo, si ritennero autorizzati appunto a definire quelli che erano i cortei e le manifestazioni autorizzate, quindi tra loro e insomma, l'autorità, la controparte, lo Stato, la Questura, eccetera, eccetera. Purtroppo questi qui non sono in circolazione più, ma i loro errori e gli errori di chi li ha preceduti e li ha prodotti, più che errori, diciamo, più che errori si tratta di forse di non so, puri detriti dei movimenti insomma che precedettero, e quindi appunto portò alla reazione di chi appunto partecipava alla base, di chi non era ovviamente nessuna intenzione di dare autorità a questi qui, di interloquire con le autorità, e poi alla reazione violenta, ma questa reazione violenta cui seguì anche un'operazione propagandistica, un'operazione repressiva giudiziaria che durò almeno un decennio. E arriviamo a 20 e oltre anni oggi appunto, ormai i media si occupano, almeno nei media, ecco, è in corso un'operazione, diciamo, anche di appunto travisamento e di mistificazione di quel momento storico, e si giunge addirittura a fare tutto un mischione, e quindi a dire che appunto della morte di Carlo Giuliani fu responsabile quelli appunto di cui parlavo prima, che si erano autocandidati e autonominati interlocutori, e che quindi è loro responsabilità quello che è successo, non solo, e che le loro responsabilità continuano ancora oggi con tutti i momenti di dissidenti, diciamo, all'agenda, quella che è l'agenda del dominio, diciamo, delle ultime, appunto, ci colleghiamo ancora alle ultime grandi, insomma, offensive, che sono quelle, anche quelle del Green Pass, insomma, della propaganda guerresca, eccetera, eccetera. Andremo ad approfondire fra qualche minuto, intanto mettiamo pure un pezzo. Gli altri battevano senza pensarci le vie apprese una volta per tutte verso il loro avvenire prevedibile. Per loro il dovere era appunto divenuto un'abitudine, e l'abitudine un dovere. Costoro non vedevano l'insufficienza della loro città perché credevano naturale l'insufficienza della loro vita. Ma noi volevamo uscire da questo condizionamento alla ricerca di un altro uso del paesaggio urbano e di passioni nuove. Genova, 20 luglio 2001, Piazza Limonda, ore 17:30 circa. Hanno già sparato a Carlo Giuliani e c'è già stato il passaggio del Defender sopra il suo corpo e anche gli sbirri hanno infierito sul suo corpo. E però che cosa succede? I poliziotti hanno appena massacrato di botte il fotografo Eligio Paoni, che aveva fotografato da vicino e troppo presto il corpo di Carlo Giuliani, e hanno, gli sbirri, distrutto metodicamente la sua Leica. Inoltre un agente lo trascina sul corpo di Carlo e gli preme la faccia su quella insanguinata del ragazzo ancora vivo. Venerdì, dopo aver superato i muri in divisa, posti attorno al paradigma capitalista, si innalzarono le barricate. Con determinazione, la base vomitava disordine sulla ribalta dell'ordine sociale, mostrando per un attimo il retroscena di un mondo entropico. I tre giorni di controvertice terminarono, si facevano i conti con la ferocia dei Torquemada. La paura aleggiava ovunque. Ci si chiedeva come uno Stato democratico potesse sconfinare dalla stessa propria Costituzione. Il panico comportava delle rimozioni di massa e ci si dimenticò dei morti nelle strade perpetrati dalla polizia del governo Scelba con la Costituzione ancora calda. Ugualmente ci si scordò delle torture subite negli anni seguenti da chi osò attaccare lo Stato. L'unica rivendicazione emersa dai proclami iniziali consisteva nella condanna dei metodi delle forze dell'ordine, dell'inadeguatezza della gestione dell'ordine pubblico, che secondo l'analisi politica più in risalto e più somigliante a un meccanismo di difesa, colpì soprattutto chi scese in piazza con modi civili e pacifici, senza affrontare con fermezza facinorosi. Il vittimismo come unico rimedio alla psicosi collettiva. Una rivolta sommersa dai piagnistei o mitizzata dal gesto eroico, mai ricordata per la sua autenticità. Un'occasione persa per riaffermare che l'unico modo per combattere il sistema repressivo consiste nel rilanciare l'offensiva riappropriandosi dello spazio pubblico. Di fatto, la predisposizione dell'ordine pubblico durante il controvertice, nonostante fior fior di professori si prodigassero a spiegarci nei dettagli i punti deboli in cui la strategia militare adottata fallì, sortì gli effetti voluti, mostrare muscoli in transigenza. La deriva giudiziaria non si fece attendere. La procura fu, per lunghi anni, sede del dibattito sui fatti del G8. Lo Stato trasferì la repressione dalle strade alle aule di tribunale. Numerosi processi furono istituiti contro i compagni e contro le forze dell'ordine e finalmente acchiapparono i misteriosi Black Bloc, arrestarono dopo circa un anno e mezzo 26 persone. Furono accusate di devastazione e saccheggio, reato che prevede una pena minima di 8 e massima di 15 anni. Le pescarono un po' ovunque, tra la base delle varie componenti presenti, tra cui le tute bianche, ossia una parte della moltitudine democratica che non esitò a unirsi al coro che accusava il gruppo nero delle peggiori scellerattezze. Gli arresti invece avrebbero potuto testimoniare che la rivolta fu generalizzata, sarebbe stato dignitoso rivendicare le pratiche messe in atto quel giorno per opporsi e resistere al dispotismo statale capitalista scontrandosi con il suo apparato repressivo, quantomeno per mantenere un filo di decenza e di coerenza davanti al nemico, che in quella fase era incarnato dall'apparato giudiziario. Allora, sì, non fu così, si concepì una teoria di divisione fra buoni e cattivi. I buoni erano i poveretti che avevano. Nonostante si trovassero una parte del corteo ancora autorizzata, subirono ingiustamente le cariche e furono costretti a scontrarsi. I cattivi dovevano necessariamente configurarsi in chi attaccò provocatoriamente le banche, bruciò le auto per impedire l'avanzamento di contingenti dell'esercito e polizia, aprì le saracinesche di un supermercato di una zona popolare, Marassi, se la prese con un commissariato di polizia senza essere mai caricati, oltretutto privi di autorizzazione. Ho letto un contributo per il ventennale, del 2021, della compagna Marina Cugnaschi, che noi personalmente non conosciamo, ma era una delle alla fine erano, mi sembra, 10 condannati definitivi per devastazione e saccheggio, cioè all'uscita dalla Cassazione nel 2012, cioè facciamo adesso una parentesi micro, veloce, come gestì, diciamo, lo Stato come gestì questa vicenda giudiziaria. Furono fatte inchieste, insomma, a tappeto in tutta Italia, furono reperiti questi 25 che furono incriminati per devastazione e saccheggio, 23 arresti nel dicembre 2002 da parte della procura di Genova. Il primo grado si svolse tra il 2004 e il 2007 e portò a 10 condanne per devastazione e saccheggio e 13 per danneggiamento. All'appello 15 prosciolti, rimasero 10 condanne per devastazione e saccheggio. Cassazione conferma le 10 condanne e si arriva quindi nel 2013 agli arresti di Jimmy Puglisi, che era latitante, fra virgolette, era in Spagna, e nel 2017 di Luca Finotti, che si trovava in Svizzera. Nel 2019 c'è stata l'operazione contro, il tentato arresto e estradizione verso Vincenzo Vecchi, di cui abbiamo già parlato in questo ultimo anno, che appunto Vincenzo ha vinto invece tutti i ricorsi e non è passata l'estradizione. Invece appunto Jimmy Puglisi si è fatto 6 anni di detenzione e gli ultimi 2 in affidamento in una comunità, mentre Luca Finotti è stato ha scontato 8 anni e tra l'altro giugno 2021 gli hanno, mentre stava scontando l'ultimo, cioè era in comunità, stava facendo gli ultimi 2 anni della pena in comunità, e gli è stata revocata la possibilità di stare in comunità, è stato ributtato in carcere per gli ultimi l'ultimo anno circa di pena, si è dovuto fare di nuovo in carcere, tra l'altro per motivi ridicoli, tipo che aveva fatto entrare una busta di tabacco in una comunità. Questa infrazione gli costò appunto la possibilità di scontare la pena in comunità. poi appunto stavamo parlando di Marina Cugnaschi, che era stata anche lei condannata per devastazione e saccheggio, e ha scritto questo contributo che poi metteremo nei riferimenti nel blog. E niente, secondo me lei ha ricostruito abbastanza bene il discorso dei sì, della realtà di quella situazione là. E adesso, lasciamo perdere un attimo il tentativo di appunto di far propaganda anche sulla morte di Carlo Giuliani, dicendo che appunto era responsabilità di del blog e di chi appunto continua a scegliere metodi di protesta che non sono democratici, come ad esempio i Novax. Lasciamo perdere questo discorso e facciamo un bilancio. Appunto, il clima che c'era, il clima reale fu appunto che la maggior parte dei manifestanti protestarono decisamente, in maniera decisa, contro lo stato di assedio cui erano sottoposti, gli arresti che volevano dimostrare appunto che un collegamento tra i cosiddetti violenti, i cosiddetti democratici, invece dimostrò che la protesta era presente in tutte le componenti del movimento, sia nelle tute bianche sia anche nei compagni anarchici come Vincenzo e come Marina. E alla fine, cioè, io adesso questa cosa qua magari è un po' ancora da pensarci su, però forse è stata addirittura una sconfitta giudiziaria alla fine della fiera, è stata anche una sconfitta giudiziaria per la controparte, perché cioè con 20.000 agenti sul campo, e centinaia e centinaia di filmati, video sorvegliati, anche se al tempi non c'erano ancora i cellulari, ma comunque, cioè i cellulari, gli smartphone, ma polizie di tutti gli stati, e sono riusciti a identificare solo queste 5-6 persone, cioè sono riusciti a condannare solo queste 5-6 persone che hanno dovuto farsi carcere di anni per un reato che dentro il codice Rocco, quindi sì, abbiamo già parlato anche di questo. Comunque alla fine una sconfitta, invece non è stata una sconfitta storicamente il discorso che hanno imposto il terrore e l'impotenza, diciamo, non poter vedere sbocchi all'azione, insomma, che si faceva sulla strada, appunto tentare di conquistarsi uno spazio pubblico. È stato bloccato per almeno, insomma, non dico una decina d'anni, però si è dovuto aspettare 2010-2011. Insomma, c'è stata l'eccezionalità della Val di Susa, ma che appunto non a caso, proprio intorno al 2010-2011, è arrivata anche lì ad avere, insomma, la sua massimo sviluppo, la sua massima espressione, appunto perché è probabilmente stata metabolizzata questo tentativo così di silenziare completamente il dissenso, ecco, che tra l'altro comunque adesso ritorna appunto questo subdolamente anche nelle ricorrenze, diciamo, dal calendario, insomma, quando si arriva a luglio, adesso addirittura si è arrivati a questa salto mortale di riuscire a dire che sì, avendo loro assolto tutti i funzionari, tutte le forze dell'ordine possibili, non avendo lasciato neanche la causa civile alla famiglia Giuliani, e si arriva a dire addirittura appunto che coloro che protestano scegliendo forme non conformi appunto a semplice dissenso verbale, se la vanno a cercare, ecco. God! potato thought to be big news. Then a bottle and chamber of commerce wanna strip you tight. Stolen Gestapo keeping your town clean. Get a shave, give a pay, it's a strike breaker. Maybe you'll make tax one for the LAPD. Well, out of turns of hazard, for a fight on your TV. We'll leave you in our pool of blood, cause we know that bene, abbiamo ascoltato adesso, ma anche prima, durante tutto l'intervento, in sottofondo, questa band molto conosciuta, credo che neanche serva a presentare, insomma, si è capito, loro erano i Dead Kennedys, band storica degli Stati Uniti. E questo, però, i brani che abbiamo ascoltato erano tratti dall'LP datato 1985, Frankenchrist. Ma ora invece passiamo ad una band recente, sempre Stati Uniti, per l'esattezza in Texas. Loro sono, da questo ultimo loro album datato 2020, i Days and Days. To experience firsthand all the culture and the beauty of the state. But when we arrived, I couldn't bring myself to leave the car. Sit locked away with my guitar, and while the others studied the mountains and the rivers, I just stared down at my fretboard pad and pen. Lately I've been struggling to conjure up a band-aid for this problem that is freshly manifested in my brain. It seems as though I've grown a light switch deep within the recess of my psyche. When it flip renders me borderline insane, it's like 10 seconds ago everything was fine and dandy, but now everything is fucked, and there ain't no rhyme or reason for my season. I just wanna be okay, but I feel stuck. Always on the road, so one year we organized a trip we'd take to Lake Tahoe. Place we'd been when I was younger, all the memories are golden. But when we arrived, I found myself down at the bar, blackout drunk and seeing stars, while my loved ones all played board games by the fire. I did drink myself within an inch of death. I'm no stranger to mistakes, it feels like every step I take I trip myself up, can't get out of my own way. I'm by far my harshest critic, and a cynic, too neurotic to accept that sometimes shit is just okay. There's always gotta be some problem I alone must solve, but that just ain't the case at all, cause I got friends and family, but my worst enemy is me, and me just can't escape my head. Cause I was born, that's on me and no one else. I'm a human Canadian, I'm good at pulling my own pin. You can blame it on my mental health, addiction, stress, anything else. All it boils down to is I'm an asshole with a loud mouth and a system of support I don't deserve. Sì, e proseguiamo parlando appunto della pervasività, diciamo, della militarizzazione, ecco, delle coscienze, e non solo delle coscienze, dell'entrismo anche dei militari e delle forze dell'ordine in vari settori, diciamo, della vita cosiddetta civile. E con questo contributo di Antonio Mazzeo parliamo di sport e specificamente del rugby italiano, che risulta sempre più armato e militarizzato, in quanto ci sono queste collaborazioni non solo con l'industria delle armi, ma anche con il famigerato, oramai per noi, Corpo degli Alpini. Allora, che cosa succede? Ci racconta Antonio Mazzeo. Ci racconta di questo addestramento ginnico-militare della Nazionale Italiana di Rugby con gli alpini dell'esercito, in vista dei prossimi mondiali. E poi c'è questo bis bellico della Federazione Italiana Rugby, previsto per domani, 28 luglio, all'Aquila, e cioè un triangolare della rappresentanza femminile di età inferiore ai 20 anni con le parietà di Irlanda e Scozia, organizzato insieme a Tails Alenia Space Italia, che è la joint venture tra due gruppi europei leader del comparto aerospaziale militare, cioè la francese Tails, che detiene il 67%, e l'italiana Leonardo SPA 33%. Allora, ci dicono i promotori, Tails Alenia Space opera dal 1983 sul territorio dell'Aquila e dopo il terremoto del 2009 ha ricostruito un nuovo stabilimento che ha inaugurato nel 2013, simbolo di una rinascita industriale nonché del proseguimento di un cammino nell'alta tecnologia, con nuove opportunità e nuove ambizioni industriali che pongono l'azienda in assoluto primo piano nel comparto spaziale europeo. Questo appunto ricorda enfaticamente l'ufficio stampa della Federazione Rugby. Quest'anno Tails Alenia Space celebra 40 anni di attività spaziale e 10 anni dall'inaugurazione del nuovo stabilimento. La Federazione appunto Italiana Rugby ricorda anche che si è conclusa a Corvara nelle Dolomiti, presso il villaggio alpino Tempesti, base addestrativa dell'esercito italiano, un'attività intensa di team building che ha visto protagonista la Nazionale Italiana Rugby maschile insieme al personale specializzato dell'esercito italiano. E vediamo che cosa hanno fatto questi mensana in corpore sano di fascista memoria. Si è trattato di un momento di confronto diverso dai classici allenamenti dell'Italia Rugby, che ha visto gli azzurri confrontarsi in condizioni inusuali rispetto al lavoro sul rettangolo di gioco. Tutti gli atleti, a partire dal pomeriggio di giovedì 13 fino a domenica 16 luglio, sono stati seguiti da personale qualificato dell'esercito italiano in varie attività di addestramento tipicamente militare, che cazzo c'entra con rugby non si sa, apprendendo nozioni di base per la sopravvivenza in montagna e confrontandosi con attività quali marce con affardellamento, primo soccorso, mascheramento, allestimento di un bivacco per il pernotto in quota, arrampicata e topografia con esercizi specifici e attività di orientering, ponendo il focus anche su attività che avevano come obiettivo di lavorare su team working, leadership, comunicazione efficace e avanti. E appunto Mazzeo conclude: per l'Italia della palla ovale, grandi aziende produttrici di morte e forze armate si confermano le peggiori alleate. Difatti è veramente qualcosa di necrofilo. Sì, tra l'altro questi insomma signori dell'industria di morte, dell'esercito e anche di queste federazioni sportive così, parlano anche di lo Stato Maggiore ci dice: l'attività appena conclusa a Corvara fortifica ulteriormente la collaborazione tra Esercito e Federazione Italiana, che condividono, promuovono e mettono in campo in ogni occasione valori quali lealtà, altruismo, rispetto delle regole, gioco di squadra. Quindi diciamo una enfatizzazione di alcuni concetti, ma anche una concetti che vengono utilizzati, diciamo, per promuovere lo sport tra i giovani, ma anche una manipolazione degli stessi concetti, diciamo una torsione, un rovesciamento, e che invece appunto dietro il quale c'è questa operazione di capillare militarizzazione della società e di accettazione anche di questa dinamica. But my glass always bone dry, so I gotta fill it up or get out of give out. I just try to tiptoe the tightrope. This pessimism's a disease. With depression and apathy sets in, a complete lack of all motivation to reach any goal to keep her low. We've dug with distraction and given to advice. Without a six-pack bag, we are bumper coat. We've lost a ton of money and depleted all our dopamine. And the world just seems a dreary place to void up any hope without a vice. Poison ourselves and don't think twice about the consequence when the crutches feel so nice. When we put band-aids on our bullet holes, we subtract the Casey sauntered down to rock bottom. It's a long road back. There ain't no seatbelts on his wagon. With every speed bump we're... Sì, e continuiamo appunto con queste così riflessioni sulla militarizzazione della società, parlando di scuola, di polizia, crisi della pedagogia e fortune del disciplinamento. Allora, si tratta di una testimonianza di un insegnante che si chiama Francesco Migliaccio, il quale racconta proprio da insegnante quello che gli è successo, cioè la sua esperienza di questi corsi che vengono proposti ai prof. Parliamo del Piemonte, ma non riguardano però solamente il Piemonte, riguardano altre regioni, l'Emilia Romagna, mi viene in mente adesso, non mi ricordo le altre comunque. E questi corsi, il titolo di questi corsi è Prevenzione dell'estremismo violento, guida, e c'è questa guida all'osservazione dei processi di radicalizzazione. E guarda, questi corsi vengono tenuti da una società cooperativa sociale, e loro dicono di Udine, in verità non è di Udine, è di Nimis, comunque friulana. Allora, vale la pena di leggere questa testimonianza, perché è molto dettagliata e proprio descrive non solo in che cosa consistono questi corsi e in cosa consiste questa guida, ma anche qual è il comportamento dei docenti, cioè come funziona il processo di adattamento, diciamo, dei docenti, anche dei docenti più progressisti, a questo così inglobamento. Ci dice questo insegnante: nella scuola dove ho insegnato quest'anno a Torino è comparso un foglio appeso in aula insegnanti, era tenuto su da una puntina, vi era scritto: siete voi dei professori, dei pedagoghi? No, siete dei miserabili funzionari e il vostro tempio del sapere è un commissariato di polizia, del resto ne ha l'odore. Quindi è comparso questo foglio critico, diciamo. Poco a destra in basso c'era il riferimento della citazione, Chekhov, l'uomo nell'astuccio. Nel racconto di Chekhov si narra di Belikov, professore di greco al liceo, che aveva la tendenza di chiudere gli oggetti in involucri protettivi, ombrelli, penne, temperini, erano foderati in contenitori chiusi. Belikov serrava anche se stesso in un guscio. Era fuori del comune, perché anche quando il tempo era splendido, usciva sempre con le galosce e l'ombrello e immancabilmente con un cappotto pesante imbottito. Nei consigli di classe, il professore Belikov ossessionava i colleghi con le sue osservazioni dall'interno dell'astuccio e chiedeva espulsioni e abbassamento dei voti in condotta per punire il cattivo comportamento di gioventù. E sempre il consiglio esaudiva le sue richieste. Un giorno un professore di storia, Kovalenko, si è rivolto con rabbia ai colleghi di Belikov e la citazione che ho ritrovato sul muro riprende la tirata che Kovalenko sulla scuola, che puzza di acido come la cabina di un poliziotto. Spesso nelle mie ore da insegnante ho riflettuto su questa metafora, la scuola come un commissariato. Durante l'ultimo anno scolastico ho raccolto articoli di giornale, testimonianze, immagini sugli interventi della polizia nelle scuole dell'area metropolitana. A novembre, in un istituto in Val di Susa, quattro volanti dei carabinieri sono giunte mentre si svolgeva una simulazione antincendio, gli agenti sono entrati nelle classi vuote alla ricerca di sostanze illegali, al rientro nelle aule, gli studenti sono stati trattenuti dai carabinieri senza poter andare in bagno, alcuni, tra questi anche minorenni, sono stati perquisiti. In città, tra la Dora e la Stura, un collettivo studentesco ha occupato il liceo Febbraio. Al cancello d'ingresso, durante il picchetto della mattina, un agente in borghese ha tenuto per il collo uno studente occupante. Lo studente e altre studentesse coinvolte nell'occupazione sono state punite, su richiesta del dirigente, con la sospensione e il 6 in condotta. Il giorno dei consigli di classe straordinari, tenuti per formalizzare le sospensioni, l'istituto era presidiato da mezzi di carabinieri, tra cui una camionetta ed agenti Digos. Ancora, in una scuola tecnica a nord della città è avvenuto un controllo antidroga. Studenti e studentesse sono state costrette a uscire dall'aula allineate col volto contro il muro. Così i cani dell'unità cinofila hanno annusato la schiera. Questi episodi non sono unici, ma sintomi di una straordinaria normalità. Forse, nell'attuale società frammentata, attraversata dalle ingiustizie e esasperata, la scuola è l'alveo dove fluiscono i malesseri di giovani in formazione. Qui il disciplinamento, il controllo e la sanzione sono gli argini immaginati. Sospetto, come il personaggio di Chekhov, che noi, insegnanti, dimentichiamo il ruolo di pedagoghi per vestire i panni dei funzionari addetti all'ordine pubblico, incapaci di mettere in discussione i nostri principali strumenti di ricatto, i voti in condotta, le note, le punizioni e soprattutto la valutazione individuale. Così gli interventi di polizia nelle scuole appaiono come l'estrema propaggine o manifestazione più intensa del nostro lavoro quotidiano. Heartbeat and blood flowed through your veins, turned to tears on my pillowcase. And I felt like a child, stumbling through my words, trying my best to impress you. You said you liked the way my smile's different every day. The music inside your head played softer when I was there. This life is cruel, you pick and choose to let it die away. Just heartache to replace, no way, no reason how. Lights are dimmed to darkness now, so I go back to. E appunto questo lungo contributo di questo insegnante poi passa a descrivere in maniera dettagliata, dicevo, questi corsi di formazione per insegnanti promossi dall'Ufficio Scolastico Regionale. Allora, dice insomma, in presenza di un reato, ci hanno insegnato durante questi corsi, devono intervenire le istituzioni dedite al law enforcement, cioè le forze dell'ordine, la prefettura, la questura e in ultima istanza il dispositivo carcerario. La scuola invece è un'istituzione dove può essere applicato un soft power utile a individuare i processi di radicalizzazione. definirne l'intensità, arginarli, un potere dolce quindi che scruta le formazioni ideologiche per prevenire il crimine e anticipare il conseguente intervento sanzionatorio. In questo quadro la scuola, insieme alle aziende sanitarie locali, ai servizi sociali e alle attività del terzo settore, è un'istituzione complementare al monopolio della violenza affidato alle forze dell'ordine. Va detto anche che per radicalizzazione, che cosa si intende, hanno spiegato i docenti di questo corso, per radicalizzazione, quali sono le ideologie peculiari che possono condurre all'estremismo violento? Il jihadismo, l'anarchismo, il neofascismo, fino ai recenti movimenti nati per criticare la gestione della pandemia. Allora, a ogni insegnante durante questi corsi è stato fornito un manuale Prevenzione dell'estremismo violento, guida all'osservazione dei processi di radicalizzazione. Secondo il manuale, la prevenzione alla radicalizzazione, soprattutto in ambito scolastico, consiste in strategie volte ad aumentare la coesione sociale e la resilienza, favorire il benessere emotivo e psicologico, ecco qua le parole che ritornano, attenuare il conflitto e le influenze negative della narrativa radicale. Per identificare, tutto tra virgolette, i soggetti a rischio, sono fornite agli insegnanti delle griglie per la osservazione della radicalizzazione dell'estremismo dei giovani. In seguito a un periodo di osservazione, un docente dovrebbe rilevare, grazie alle griglie, alcune vulnerabilità individuali, come manifesta assenza di identificazione positiva con la società e la comunità e ne rifiuta i valori democratici, oppure manifesta odio verso la società occidentale e i suoi simboli, oppure mostra risentimento per motivi economici, sociali e politici. Nei peculiari indicatori critici trovo tra gli altri: è affetto da una malattia mentale certificata o presunta, fa uso di sostanze stupefacenti. Nella sezione dedicata invece alla polarizzazione verso ideologie violente leggo: si isola dal contesto sociale ed esprime sentimenti di rottura col suo ambiente, giustifica azioni violente in nome di un bene superiore. Le griglie di osservazione sono ispirate alla tradizione dei protocolli per la valutazione del rischio di violenza. Questi strumenti sono adottati innanzitutto in ambito carcerario per analizzare l'intero spettro delle ideologie violente tra i detenuti. Anche i percorsi multidisciplinari per contrastare la radicalizzazione sono ispirati ai programmi sviluppati in ambito carcerario per prevenire la recidiva e favorire il reintegro nella società degli ex detenuti. E conclude, cioè concludiamo noi, lui non conclude, ma poi troverete l'articolo completo nel blog. In questo corso per docenti ho intravisto allora il punto di confluenza tra dimensione carceraria e istituzione scolastica, l'incontro tra il potere aspro della detenzione e il potere, tra virgolette, dolce della scuola. La metafora iniziale, la scuola come commissariato, la scuola come carcere, ma appare ora come ipotesi operativa per descrivere relazioni concrete tra ruoli istituzionali. Swear I'd try my best to make you proud, 'cause Peace out, farewell to everyone, everything. Thanks for the memories. I'll catch you down the line when we be through. Hey, hell, the first sound's on me. We'll get him into the gimme something time. There's stories and songs we can live forever. Unfortunately, they'll succumb to decay. Once I am banished from this world, if you find yourself feeling lonely, and light years from okay, just hum this tune and I'll be right back here with you. Farewell to everyone, everything. Thanks for the memories. I'll catch down the line when we meet through. And now the first round's on me. We'll get heaven to the gimme some hang time. Peace out. Farewell to everyone, everything. Thanks for the memories. I'll catch down the line when we meet through. And now the first round's on me. We'll toast to the world that we left behind. Yeah, we'll toast to the world we left behind. We'll toast to all. Everything. Thanks for the memories. I'll catch you down the line when we regroup. In hell, the first round's on me. We'll get hammered to the gimme's all lang syne. Bene, abbiamo ascoltato adesso, fino a questo momento, in sottofondo, anche prima durante l'intervento, questa band texana, i Days and Days. In realtà stanno ancora trascorrendo in sottofondo, ma è il classico album con il brano fantasma, cioè ovvero il brano alla fine, dopo almeno 4 minuti di silenzio. Vabbè, dettagli per i musicofili. E ora invece passiamo a questa band di Torino. Loro sono i Bellicosi e da un loro album datato 2001 ci ascoltiamo uno o due brani, comunque album che si chiama Torino Rock and Roll Stars. Bellicosi. quanto liceo. Bene, intanto che teniamo in sottofondo sempre questa band torinese, band che è esistita alla fine, cioè più o meno tra gli anni 90 e i primi anni 2000, loro sono i Bellicosi. E questo era il loro album Torino Rock and Roll Stars. Posso anche ormai salutarvi perché siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics. Abbiamo pochi minuti ancora a disposizione. È una trasmissione che viene trasmessa in diretta radiofonica ogni giovedì dalle ore 20 alle 21:30 e viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Perciò vi do i nostri contatti prima di salutarci definitivamente per oggi. I nostri contatti, se volete scriverci con la posta, tramite posta elettronica, la mail è liberetutti@autistiche.org, ripeto liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci in forma cartacea intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Ripeto, intestare ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34 121. Bene, e altra cosa, che se volete riascoltare questa trasmissione o tutte quelle delle volte scorse, potete andare su zardinsmagneticsradio.noblogs.org, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. E inoltre salutiamo anche chi ci ascolta in diretta radiofonica domani dalle ore 17 su Radiazione, che è una web radio. Bene, ciao a tutti e vi lascio ancora con i torinesi Bellicosi. Yeah.